Welcome, Federico. All servers are ready. The security system is loaded. Allora, ripartiamo subito con la Corp, direi facciamo un pochettino più veloci, perché capisco che il The Professor, avendo tutta questa possibilità di risparmiare sui vari programmi che mettiamo, per la cronaca abbiamo risparmiato una ventina di punti influenza, cioè 19 per la precisione, cioè 34 totali di out of faction influence, e quindi chiaramente rispetto a un normale... una identità normale abbiamo 20 punti, 19 punti che sforano i 15. Comunque, è l'unico vantaggio che abbiamo, perlomeno se lo sfruttiamo al massimo. Allora, ripartiamo. Corp. Allora, la mia proposta è questa. Visto che abbiamo puntato molto sull'influenza, io ti volevo proporre Custom Biotics. Proponi un mazzo che mi proponi un'unità che io ho usato recentemente, ma che ho rimesso un attimo lì aspettando un qualcosa in più. Ho fatto un mazzo che diciamo che è divertente, sorprende. Ma hai fatto un custom biotics tag and bag? No, assolutamente no, è quello perché quello che sorprende. L'influenza è usata in tutt'altro modo, viene usata semplicemente per gli ice. Visto che l'hai già fatto, ce lo vuoi riproporre oppure andiamo su altri link? No, te lo posso riproporre tranquillamente, non è un problema, anzi. Dai, così ci motivi il perché di alcune carte e i ragionamenti che ci hai fatto su. Ok, Custom Biotics sia. Giusto per la cronaca, l'identità Custom Biotics innanzitutto è una divisione di HB, quindi di Asbioroid. 45 carte minimo, 22 di influenza, quindi una buonissima influenza, ma non può includere carte Jinteki all'interno di questo mazzo. Io personalmente lo trovo un limite veramente molto notevole, perché dà un'informazione eccezionale al runner, che può per esempio non temere gli snare quando va su R&D, certi ice non ci sono, insomma. Principalmente sono gli snare, però anche i chum o anche i nero a katana, queste cose qui sai che non ci sono, insomma vai liscio sulla quantità di carte che ci puoi avere in mano. E in più, essendo 22 ottimale per poter giocare la combo tag and bag, probabilmente uno si aspetta anche che tu giochi 3 Scorched Earth e magari Sea Swords. Quindi magari contro Custom Biotics, io se ho la scritta in mano la gioco. Detto questo, Riccardo, come hai fatto il tuo mazzo? Allora, il mio mazzo è particolare, mi piace creare questi mazzi particolari e usare l'influenza. Ecco perché hai risposto al mio richiamo del deck building. Certo, a me piace provare quei mazzi che si vedono poco, quelli che è un po' nuovo, perché è sempre la solita solpa, non mi piace. I mazzi che sappiamo che vincono, quindi cioè non mi diverte neanche giocarli, voglio giocare questi mazzi in cui posso lavorarci, in cui posso tirarci fuori qualcosa, che mi danno soddisfazione a vincere, perché ultimamente il gioco corpo è mostruosamente noioso. Pass Advance non ha interazione, tag and bag tanto meno, in un modo siamo a posto così, fai la tua run, hai rubato l'agenda, mid season e uccisi. A posto. Quindi, io parto sempre dall'aspetto economico, perché è quello che mi interessa di più quando faccio i mazzi, che soprattutto per le corpo adesso deve comunque reggere un'economia molto forte dei runner, e quindi l'economia ci vuole sempre. Sono pronto per scrivere Adonis. Due Adonis? Solo due? Solo due, perché giochiamo anche due Eve Campaign. Ah, Eve Campaign lo preferisci ad Adonis? Lo vuoi tenere scoperto? No, le gioco tutte e due perché comunque una è più rapida e una rimane lì per più tempo e comunque costando 5 il runner ci pensa, a me alla fine la installo, la reggo, da due subito mi è costata 3. Però la devi proteggere però. Ma ti dirò, molte volte molti te la trasciano subito, alcuni la vedono anche e la lasciano lì. Ma non lo so. La devo giocare di più, probabilmente non l'ho giocato abbastanza per vedere le reazioni dei runner. E ok, quindi 2-2 delle campagne tanto famose in Asbyroid. Poi sicuramente dentro le due successful demonstration. Ok, quelle nuove. Te sei veramente l'uomo due per delle carte? Sì, sono l'uomo due per delle carte, sono noiosissimo sui due per. Io gioco davvero pochissima roba in tre per, non mi piacciono molto. In tre per preferisco mettere qualcosa in meno in tre per avere più possibilità. Credo che qui direi due pet campaign. Credo le melange, adesso non ricordo se le ho messe. Sì, no, ma vai in freestyle, vai in freestyle, non devi fare esattamente lo vado stesso. Vado in freestyle, ti dico di sì, al momento ti dico di sì, anche se credo che fossero due edge fund. Ok. È probabile che fossero due edge fund. Ti dirò una carta che vedo poco giocata, che però a me piace tantissimo, soprattutto contro questo nuovo meta, contro Riel. Vai. Che non gioco mai io perché mi dà ancora più noia che giocare corpo. E io ti dico due rework. Rework, la carta per cui mi sono arrovellato di capire che cacchio c'entra rework, cioè come si fa a giocare sta carta. Cioè io l'unica cosa che posso vederci è mischiarmi le agende dentro il mazzo. Serve a quello? Beh, adesso è diventata utile anche semplicemente contro Riel per rimischiarmi il mazzo dopo l'indexing. Se lui poi non fa subito un maker sign, non fa subito niente, si prepara un attimo, io faccio un indexing, ti faccio un rework e il tuo indexing non è servito a niente. Ok, mai convinto. Due rework. Ma sì, alla fine metto anche le melange. Ok. Meglio sempre più economia, visto che non prendiamo il soldino installando che in altro modo. Vogliamo mettere anche un paio d'agende? Ecco, sulle agende io ne giocherei 8. 8, va bene, 8. Quindi sono Botan. Beh, sicuramente un acceleratore test, 2. Ok, ero partito subito con Project Votan, invece no, Beta Test. Sì, direi anche Project Votan. Sì, due, solo due Accelerated Beta Test. Due Accelerated Beta Test, due Project Votan, due Priority Requisition e due Project Returns, direi. Anzi no, sai cosa? Vabbè, non è ancora uscita, però... Se non è uscita te la boccio, ti spiego per quale motivo. Se sono sufficientemente pazzo, venerdì al Friday Night Magic gioco con questi due mazzi. Ecco, però lo suggeriamo ai nostri ascoltatori, io tirerei via dopo il Vitruvius per il Project Ares. Project Ares, ho capito, sì. Ho visto valutazioni negative, ma... A me, per questo tipo di mappo piace particolarmente, quindi mettiamo un Ash, due Ash sicuramente. Non te lo chiedo più ormai. Due per. Esatto, quanti? Due per, sei l'uomo due per. No, due per c'ha senso se poi metti qualcosa tre per, che vuoi che esca di più. O anche no, semplicemente per avere la possibilità di mettere un'altra scelta anche lei in due per. Vabbè. Io, quando faccio i mazzi sono... Ma dopo non sono affidabili, cioè non esce quello che vuoi tu. Escono tante cose diverse, però non esce quello che ti serve. Boh, non lo so. Chiaramente io sono possibilista, non avendoci mai giocato con tutto due per, non lo posso sapere. Comunque. Se gioco un tag and bag sono tre scorcio d'earth e tre qualcos'altro, quindi. Sì, vabbè, certo, chiaramente. Allora, una carta fondamentale. Se non è proprio fondamentale, sì, se non fa parte della combo, ti dici posso metterla anche 2x. Sì, in realtà questo mazzo la combo è la sorpresa che si può trovare contro, in realtà, quindi in realtà di 3x non c'è quasi nulla, quindi. Sì, beh, chiaramente sull'influenza direi che più fai non cose di nulla, quindi sì. Poi io metterei due belle segretarie, che loro fanno sempre il loro dovere. Potente, due segretarie. Sì, perché comunque la segretaria in questo mazzo la vedo bene, perché avendo tu delle agende che carichi con due avanzamenti, sicuramente puoi fare il bluff che sia un'agenda, cioè quando magari hanno già visto che poi magari rimani con due crediti e sono convinti che sia la nuova trappola che fa i brain damage, vengono a vederla tra i due programmi. Partiamo con gli ice, io ti dirò che useremo tutta l'influenza sugli ice. Quindi solo ice esterni a HV? No. No, anche ice interni a HB, però parto con un ice che fu giudicato fortissimo, ma che adesso vedo poco giocato, che però per come intendo questo mazzo ci sta bene, che sono due chimera. Ah, no, chimera c'ha senso, adesso in questo periodo no, perché ci sono troppi Atman a zero, però sì, c'ha senso. Vai, poi? Due chimera, poi dopo due ici 1.0, 2 ICI 2.0, chiaramente. Ah, ci metti pure 2.0? Anche pure 2.0. Ignorantissimo. A costo 2 Janus. A sto punto ti chiedo se giochi quelli che rezzano i Bioroi. Sì, no. No, ok. 15 di costo, sì, ma tanto comunque noi soldi li facciamo. Abbiamo anche l'agenda che ce lo può tirare su. Quindi. Sì, è vero. Non c'è e volendo c'è anche una celere beta test, quindi sì. Abbiamo anche quella peculiarità lì che può venire giù senza nessun tipo di problema. No, ABS per la sorpresa è 1-2 2-2 2 Sherlock 1.0. esiste anche Sherlock 2? Va bene, adesso tutto influenza, vai, Tollbot. Non lo so, io ce l'avrei messo, però magari tu no. Dimmi pure. Due Data Raven. Chiaramente dovrebbero cominciare a farsi delle domande, nel senso, ma gioca 4 punti influenza su quelli lì, quindi non gli resta tantissimo per il Tang and Back. Vabbè, tre Sea Source sono 6 punti, Scorched Earth sono 12 punti, 18. E sì, esatto, dovrebbero essere finiti. Okay, esatto. Quindi magari in un gioco mid season. Sì, esatto. Va bene, dai, magari una mid-season e una Sea Search può essere. Comunque risolviamo tutto il dubbio, perché ci mettiamo dentro due flare e siamo a posto. Flare è serio, quando lo rezzi la gente si preoccupa. A me dispiace che non abbia tante sub routine, ma ne abbia solamente anche una. Anche a me, almeno due sarebbe stato meglio. Sì, perché con il trash con i due danni dall'end of the run sarebbe stato anche solamente perché esiste Fan Fatal, che quindi a costo 1 te lo passa, invece se aveva tante subroutine non era male. Potevano farle tutte e tre in fila o metterne due insieme, poi l'end of the run da solo, sì. Comunque gli avrebbe dato fastidio. Uroboros, wow, l'ho scritto anche bene. Quanti te ne metto? 2. La domanda è, la risposta è noiosa a questo punto. Ok, senti, ma come cazzo li paghi tutti questi ice? Costano tutti un bel po'. Costano troppo, cioè primo turno che cazzo faccio? Chimera? Due Caduceus. Messi, due Archer. Archer? Cioè con la fatica che fai a mettere queste agende da due punti e da tre punti mi metti in Archer, non ti capisco minimamente. Oh, poi magari mi fai il culo, però non ti sto capendo. Dovremmo essere a 48, giusto? Te lo dico subito, 48, sì. Ah, gli Archer tu chiaramente li vuoi realizzare solamente con Priority o con un accelerante per testa, oppure te lo posso anche realizzare, non è un problema. Per come hai pensato il mazzo, te lo posso anche girare in faccia. Può essere un problema. E con l'ultimo slot qui mi attirerò le ire di molti. Se, aspetta, voglio vedere a quanti punti di influenza siamo. Ah, abbiamo finito l'influenza. Mi tirerò le ire di molti, ma una Levi University. Oh, ecco perché ce ne mettevi così pochi di ice, cioè due per. Perché dici tanto, io ci metto Levi University, che mi fa cercare tutto. Ma non so, è fondamentalmente una pescata di qualità, costo 1 e ti fa comunque shuffolare, quindi ti fa mischiare il mazzo. Senti, per ora mi stai convincendo poco, cioè faccio fatica a pensare che tu riesca a fare un server della morte con facilità dove poter scorare le tue gente senza che lui possa passare. Sicuramente c'è una caratteristica che è molto valida, e cioè tutti ice con tanto di forza, che in questo momento è veramente l'unica cosa che ti salva dal mazzo Atman Data Sucker, perché chiaramente se Data Sucker tutte le volte che deve passare due ice spende 8 segnalini virus, poi dopo non ce li ha per poter passare molteplici volte lo stesso ice. Quindi sicuramente questo qui verte a tuo vantaggio, perché abbiamo un Archer da 6, un Caduceus da 3, un Uroboros da 4, Flare da 6, Data Raven da 4, Sherlock da 5, Rototurret 0, scusate, Janus chiaramente 8, IC5, IC4 e la Chimera da 0 per l'early game. Successful Demonstration pure un bel burst economico, Hedge Fund, i rework io non li avrei giocati, Ash chiaramente c'ha senso, anche solamente come trappola che la metti lì che sembra un'agenda e lui si passa attraverso dissanguandosi e poi trova un Ash, gli upgrade servono anche a quello. E sì, anche Levi University in effetti c'ha senso. ABS va scorato, cioè nel senso ABS va attivato l'effetto, al contrario di quello che succede con i Fast Advance che non lo attivi mai, e va in combinazione bene con le 8 agende. Vogliamo mettere 3 Accelerated Beta Test e un Vitruvius? Sì, ci può stare, perché non c'è ancora per me il progettare, quindi è una scelta giusta. Esatto. E io questo punto metterei anche un Project Wotan e 3 Priority. No, ti dirò che secondo me invece no, perché se porti a casa un Project Wotan, per il tipo di mazzo che è questo. Ma perché hai pochi bioroidi? Tutto qua, te lo dicevo per questo, perché il Project Wotan funziona solo sui bioroidi. Tu hai Sherlock che non è un bioroide. Ah no, è un bioroide. Ah sì, Sherlock è un bioroide. Poi Rototurret non è bioroide, Janus sì, ICC, però hai 6 ice bioroidi, non è che ne hai 100.000. Beh, invece Priority funziona su tutte, e siccome hai tutto che costa tanto, mi sembrava ragionevole. Se ce ne hai, non ne hai tantissimi, sì, puoi anche farlo, niente di sbagliato in tutto ciò. Chiaro che comunque di bioroidi ce n'è, e nel momento in cui riesce a tirarla su, vuol dire fermarsi. Sì, fa automatico, quasi un Isei MK automatico, sì. Quasi sì. No, ma cioè, non so se hai notato qual è la particolarità di questo mazzo, quello che può sorprendere l'avversario, che magari non te ne sei reso conto, magari non se ne rende conto neanche il tuo avversario a torneo, in partita, e perde tempo. Mm-hmm. Questo mazzo ha una particolarità esclusiva, non lo nota quasi nessuno, però può fare la differenza questo fattore sorpresa. Spara, non lo sto notando. Sono tutte sentry. Ah cazzo! Infatti total sentry 20, quindi praticamente sono tutte di tipologie di ice con la quale controparte Icebreaker è la meno efficiente. Sì, quindi l'obiettivo è farti spendere soldi e renderti inutile il Corroder piuttosto che lo Yogg. Esatto, e nel caso comunque abbiamo immediatamente, io non giocherai mai ai primi turni la Chimera come sempre. Chiaro, perché magari qualcuno se la feccia e se la va a prendere Esatto, piuttosto se tu mi hai installato un corroder, ti dico è un code gate. Certo. Affari tuoi. È una barrier, affari tuoi. Comunque, solitamente perdono tempo a cercarsi tutti gli icebreaker, a non fare quelle run, vedono qualche senso, non le vedono tutte. Vanno la run sul server, spendono soldi, si beccano un hash, non c'è niente, io porto a casa l'agenda e sono 8, quindi anche magari alcune run sul mazzo sono totalmente inefficienti. Prendo tempo, questo è un mazzo che prende tempo. Prende tempo, soffre il problema di Atman, ma Atman non è vero che soffre il problema. Cioè Atman in combinazione con Data Sucker, prima di tirarti giù un Uroboros per passartelo, preferisce piuttosto farsi le trace. Cioè. Piuttosto lo mette a forza 4, di solito quando li vedo giocati ne vedo sempre uno a forza 0, uno a forza 3-4 e magari se ne piazzano uno lì a forza 6. Sì, ho capito, però ci devono arrivare ad averci mentre io al tavolo. Spendono soldi e cioè almeno la maggior parte di questa sentry ha comunque due super pin, quindi. Sì, sì. Chiaro, i biroidi li può spendere coi click, ma la sorpresa che può trovarsi è arrivare in faccia un IC2.0 e non riuscire a romperlo. Sono programmi che se ne vanno e magari. Sì, comunque. Perde tempo a ricercarli, a reinstallarli mentre. Sì, comunque hai molta roba che trascia programmi, quindi. Esatto, e nell'ottica per questo Project Ares. Perché sì, certo. Project Ares, se te lo leggono come una trappola, non ci vengono. Io lo continuo ad avanzare, mi darà una bad publicity, ma se io lo giro e ti faccio trasciare 5 carte, in mid-late game, 5 carte. Possono essere tanti, chiaro, devo avanzarlo tanto, ma magari a un certo punto sì, ma perché lo avanza? Che carta è? Io Project Ares lo giocherei sempre su questo mazzo qui, però farei proprio Mid-Season Replacement, Psychographics e Project Ares. Il progetto malefico. No, è una finezza, lo porto su anche solo a 10-13 e sono carte che se ne vanno. Per una web publicity è. Tirato al punto giusto può fare davvero male, ma a quel punto lì, quando gli hai dato 1000 tag, piuttosto gli tiri scorciatore. Se non è troppo protetto. Direi che abbiamo accumulato sufficiente materiale per poter presentarci al torneo. Tu ci vai al torneo sabato a Reggio Emilia? Il 12? Sì. Sabato prossimo? Sì. Divertitevi e provateli, io il sentry l'ho provato, aspetto le nuove sentry, quindi anche quella illecita che ti fa un brain damage e ti ferma, io l'aspetto perché per questo matto è comunque geniale, divertitevi e... Secondo me Flatline sarà molto entusiasta di questi mazzi qui perché lui è anche un sperimentatore, infatti me l'aspettavo Flatline che soffrisse, invece sei arrivato prima tu, bravo. L'hai fregato, quindi divertitevi, se poi qualcun altro vuole qualche mazzo altro strano che io sto coltivando nel mio antro oscuro su Facebook ve li chiedete, ve li passo volentieri, quindi. Va bene, dai, chiudiamo qui la puntata di oggi, grazie veramente del tuo tempo Riccardo, chiaramente sei invitato alle prossime puntate a partecipare quando vuoi, mi fai un squillo e ci sentiamo, mi scuso anticipatamente per la qualità dell'audio, ma a quanto pare la legge di Murphy si applica benissimo a casa mia e tutta la puntata è stata registrata attraverso Skype con il mio con la connessione a internet direttamente dal mio cellulare, quindi vedete voi che qualità potrà essere. Io risolverò i problemi con lo Skype Recorder. Vabbè, quello me le date anche a me, è veramente cattivo quel programma, funziona solo quando vuole lui. Salutiamo tutti quanti, io vi saluto da parte mia Federico e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. I've seen things you people wouldn't believe. The system will now go into maintenance mode. Thank you for using our services.